tiro, la palla respinta, il capitano tira, gol! È il gol del bimbo d'oro! Una sassata del capitano! Tutti convocati di Carlo Genta. Avrete capito anche voi, insieme a Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, che il capitano a cui si fa riferimento è quello che oggi celebra i 20 anni, nella voce quasi riconoscibile, strozzata dalla gioia, di Carlo Zampa. Dunque, 1993, 2013, 20 anni di Francesco Totti. 1993, non voglio fare troppo nostalgico, quindi nemmeno troppo sdolcinato, perché non ne ho voglia. Ma è l'argomento da cui partiamo per dire che va bene, Francesco Totti lo celebriamo, l'evangelizzazione di Francesco, non il nuovo Papa, ma l'unico re di Roma. Ebbene, cosa succedeva in quel 93? Musicalmente parlando, perché la musica ci piace. Allora, c'erano gli Informer, c'erano gli Snow, la canzone è Informer, e un po' tutti, magari Balotelli no, era 3 anni, un po' tutti l'avete ballata. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go blam. I lick you bum bum down. Take the man that says, say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I lick you bum bum down. Informer. Anche, Peter Sagan aveva 3 anni come Balotelli, ed è questo il futuro. Il passato invece, 93, c'era Fellini che ritirava l'Oscar alla carriera. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. This reads to Federico Fellini in appreciation of one of the screen's master storytellers. Congratulations. Grazie. Can I give you a kiss? Yes, I want it. Okay. Another one. Thank you, grazie. Thank you very much. Grazie, Mancini. C'eravate voi che chissà cosa stavate facendo. Ditemelo, 800 24 00 24, perché Totti fa parte della storia un po' di tutti noi, che per quelli che l'hanno amato alla follia, non solo romanisti, per quelli che lo hanno detestato, considerato sopravvalutato, magari in nazionale. Ma sempre in quel 93, oltre a Fellini, c'era Mandela che ritirava il Nobel per la pace. Today's announcement that I have been named to receive the most prestigious award for peace was a deeply humbling experience. C'era la Cecoslovacchia che si sbriciolava in Repubblica Ceca e Slovacchia, c'era l'insediamento di Bill Clinton, c'era, sportivamente parlando, Monica Seles che si beccava una coltellata da un pazzo al torneo di Amburgo, e c'era per l'appunto un ragazzino biondo, ancora gracile, di 16 anni, 17 non ancora compiuti, in cui tutti già vedevano i segni del campione. Quel ragazzino debuttò a Brescia. E poi, e questo diciamo è il fatto storico, vogliamo un po' esagerare, è uscito Rizzitelli e ha lasciato il posto al giovane Francesco Totti, che quindi conosce il giorno dell'esordio in una giornata, chiamiamola di gloria, sto parlando un po' di retorica oggi, di gloria romanista, una vittoria fuori casa, almeno così dovrebbe essere, a 20 secondi dalla fine, Roma saldamente a comando con 2 gol messi a segno il primo tempo da Caniggia e Mikhailovic. Ricordiamo che Francesco Totti è stato protagonista della trasferta proprio ieri, della trasferta della primavera giallorossa, segnando tra l'altro il gol della vittoria. E dunque l'esordio di Francesco Totti, che arrivava da questa trasferta con la primavera. Però, insomma, sapete che a me non piace vivere con il collo girato all'indietro, anche perché sennò poi, data l'età, mi fa male. Nel 93 mi ricordo tutte queste cose. Io vorrei utilizzare e partire da questa, da questo compleanno importantissimo e molto bello di Francesco Totti, vi invito ovviamente a questo e ad altro 800 24 00 24, per guardare, cosa che mi interessa forse anche di più, forse anche di più, a quei bambini che nel 93 avevano 3 anni. Noi ragazzi di oggi, noi con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Avevano 3 anni, oggi sono sfrontati, sono, hanno come Totti probabilmente i segni del campione. Di uno di questi abbiamo parlato tutta la settimana, quindi parliamo ancora, ma per ragioni anagrafiche, perché è un personaggio, non è l'unico però, Mario Balotelli, perché c'è anche un corridore che mi mette i brividi, proprio come Totti in campo, anche se è presto, come Balotelli in campo, anche se è presto, è Peter Sagan, perché è uno che taglia il traguardo di una corsa dura, di una corsa pazzesca, sotto un tempo d'inferno come la Gambe Velghe, ma alzando la bicicletta come se fosse quella da cross dei bambini, ebbene a me attira anche le antipatie del gruppo, attira le critiche per la sua spacconeria, ma ci piacciono così. Io saluto e ringrazio Giovanni Bruno, direttore iniziative speciali di Sky e nostro amico. Ciao direttore. Buongiorno. Allora siamo partiti dall'Oscar di Fellini, da Mandela, dall'esordio di Francesco Totti, però io vorrei arrivare ai ragazzi di oggi, quelli che avevano 3 anni quel giorno e che sono Balotelli, sono Sagan, sono il futuro, sono quelli che ci fanno dire: beh, Totti è stata una parte del nostro passato, anche del tuo, e partiamo da qua. Ma sai, Totti è un grandissimo personaggio, è nato sotto una buona stella, perché per il semplice fatto, per quanto il rendimento che ha avuto, è qualcosa di straordinario. I ragazzi di adesso, quindi hai detto bene, il discorso di Peter Sagan è qualcosa di straordinario, può dar fastidio a tanti per il suo modo di correre, un po' troppo esuberante, però quel suo modo di correre l'ha pure, passami il termine, fatto fesso alla Milano-Sanremo, perché lui ha dovuto rintuzzare tutti gli attacchi, essendo il più forte per una volata, e quindi poi sbucato fuori Ciolek che ha succhiato bene le ruote e ha funzionato bene. Però sono quei personaggi che ti divertono, che ti aspetti veramente da loro tanto, e sono divertenti, guarda, ti assicuro, è una cosa molto piacevole vedere che cosa succede in una volata con Sagan. Mi è dispiaciuto, era rimasto staccato nella seconda tappa di La Pan, quando Cavendish ha fatto quel numero mostruoso portato dalla squadra, ma attenzione, la squadra poi aveva mollato e lui a quel punto è saltato da una ruota all'altra facendo i numeri. Sì. Direttore, ti chiedo un attimo di pazienza e poi proseguiamo un attimo con questo discorso tra il passato e le celebrazioni, dicevo prima, l'evangelizzazione di Francesco Totti che ci sta, però questo sguardo al futuro, perché è bello trovare una colla tra queste, provare a trovare una colla tra queste due, tra questi due, tra questi personaggi che hanno rappresentato e spero rappresenteranno parte di noi, del nostro sport. Tutti convocati. Allora, aspetto le vostre telefonate all'800 24 00 24, mentre c'è chi scrive: con Balotelli ha rotto le palle, l'ho citato una volta, e comunque è un personaggio ed è, io spero, futuro del nostro calcio, così come Totti è stato il passato e il presente. C'è chi scrive: un campione che non ha vinto nulla, riferito a Francesco Totti. C'è chi scrive: ma quanto ci vorrà a scoprire che anche Sagan si droga? Ovviamente, questa me l'aspettavo e me l'aspetterò sempre, eccetera eccetera eccetera. Ma c'è soprattutto Giovanni Bruno, direttore di Sky, cui volevo sottoporre un mio pensiero, magari sbagliato. Parlare di Totti in nazionale in Brasile mi sembra qualcosa di antistorico oggi, direttore. Sì, io, diciamo, al di là dell'affetto, e te lo confesso, di Totti, che ho con Francesco Totti, perché al di là che non tifo Roma, ma tifo Totti, per assurdo, mi piace, mi è sempre piaciuto, e il legame poi con Sagan per me sono i numeri, no? Questi grandi personaggi, anche il legame con Balotelli sono numeri. Sì. È brutto sentire, come al solito, diciamo, quando si troverà Sagan dopato, diciamo le solite cose, certo. Sono sciocche e stupide. La realtà del futuro di Totti non lo so, perché secondo me Totti è anche troppo intelligente per dire ci sarò in Brasile nel 2014, quindi tra un anno. Lui ha una condizione straordinaria adesso. Se ci fosse il Brasile domani io lo convocherei immediatamente per come sta giocando. Francamente tra un anno è un discorso, diciamo, di muscolatura, un discorso di rendimento, un discorso di suo feeling con la squadra, con l'allenatore, insomma ci stanno qui parlando della Roma, perché con il feeling che ha con Prandelli penso che ci sia, perché un personaggio come Prandelli è difficile da ritrovare in condizioni, in altre condizioni, perché da come ha ristrutturato Balotelli, e ti confesso un'altra cosa, Balotelli qualche anno fa non mi piaceva, Balotelli di adesso mi piace, e il concetto di leggera e puntuale maturazione è servito il Milan, è servita la nazionale, è servita a responsabilizzarlo su altre cose. E l'ultima cosa proprio su Balotelli, se mi permetti, e anche quei numerose situazioni di gossip, figlio e non figli, o Raffaella Fico o Fico d'India, come ti pare a te, la realtà è che lui ha anche in quello si è comportato, secondo me, molto bene, cosa che invece non ha fatto la dolce fanciulla. Sì. Tu sai benissimo che in America un grande giocatore annuncia il ritiro l'anno prima che avvenga, poi non gli si promettono maglie di vari colori, ma gli viene regalato un ben più prezioso giro d'onore, cioè il tributo con standing ovation su tutti i campi che ha calcato, e spesso più è stato nemico sportivo di una certa tifoseria, meglio viene accolto e più lungo è quell'applauso. Mi piacerebbe succedesse anche per Totti, anche se non mi pare abbia grandi intenzioni di ritirarsi, però secondo me quello è un modo di chiudere la carriera, è il modo più bello di chiudere la carriera, forse più di un mondiale. Verissimo, no, hai detto veramente bene, il paragone con gli Stati Uniti è giusto, come è giusto secondo me il tributo che può chiedere Totti all'Italia, perché penso che a tutti quanti, quando c'è il giocatore di classe è difficile non amarlo, è difficile, diciamo, tra virgolette, passami il brutto termine, non apprezzarlo o insultarlo come può essere una brutta curva, perché quel campione ti ha regalato delle cose straordinarie, e quindi di conseguenza un po' con la nazionale, un po' con la Roma, unica sua squadra, quindi da questo punto di vista è solo da apprezzare, e ci dovremmo tutti quanti alzare la famosa standing ovation che ormai è strabusata, ma in questo caso sarebbe una cosa micidiale per Totti. E secondo me Totti, come personaggio serio che è, perché la realtà è una persona estremamente seria, ricordiamo la sua grande disponibilità verso tutto il mondo, tra virgolette, della carità, tra tutto il mondo delle donazioni, è sempre stato il primo a scendere in campo per qualunque cosa, dall'animale maltrattato a situazioni veramente molto più drammatiche. Quindi secondo me altro che standing ovation in Italia, ci vorrebbe veramente un qualcosa di pazzesco, come ritirare anche la maglia, perché quelle maglie lì sono rimangono un dono particolare. Sì, per i tifosi. Per chiudere, direttore, tornando ai ragazzini, alle facce toste che hanno, a questo modo di essere sfrontati, abbiamo parlato di Balotelli, abbiamo parlato di Peter Sagan, ma io ci aggiungerei, da materia di casa tua, anche Vettel, perché mi sono attirato gli strali di un popolo intero dicendo che quel sorpasso è stato un capolavoro di cattiveria, della cattiveria di un campione su un buon pilota, della cattiveria di un campione disobbediente, però quelli veri sono così. Guarda, non lo so, ma io dal mio punto di vista, non so, Alonso avrebbe fatto lo stesso con Massa? Secondo me sì. Anche secondo me. È vero, anche nel passato, se tu torni indietro, non fare il paragone Pironi-Villeneuve, quello è diverso, quello è assolutamente diverso, perché è, diciamo, quello che si vuole porsi in mostra rispetto a quello che doveva poi vincere, e il discorso è diverso. Ma il Prost Senna è uguale, quindi sono campioni che non mollano, non alzano i piedi, cioè non guardano il colore se è della stessa propria maglia o in questo caso carrozzeria rispetto a un altro, no, non lo so, il mondiale si giocherà sui piazzamenti, sui punti, quindi se lui in camera punti per azzeccare la quarta volta, perché no? Cioè, è giusto che sia così, sono quelli, sì, sono quelli forti, sono quelli tosti. Sono quelli forti, sono quelli tosti, sono i campioni che hanno quella garra che magari altri sportivi che meritano tutto il rispetto possibile non, non hanno. Senti, per chiudere, tu hai lavorato a lungo anche alla Rai, hai avuto posizioni importanti anche lì, io ho parlato molto, forse troppo, qualcuno mi odierà, di quegli annunci al TG1. Allora, la gara è stata vinta da Vettel, adesso però state con noi che ve la facciamo vedere. Ma come? Mi dici il nome dell'assassino? Guarda, purtroppo in quei casi lì, sai, sono due direzioni diverse, ci sono capitato in mezzo svariate volte, direzione contro un'altra direzione. Il direttore del TG1 ti dirà sempre, è la notizia la vittoria di Vettel, quindi non posso bucarla. La realtà è che si può trovare un semplice e simpatico accordo nel dire, il Gran Premio è finito, attenzione, tra poco lo vedrete sulla nostra rete, e quindi si risolvereste il problema in tempo reale. Io non voglio arrivare a ricordi brutti della Rai quando interrompevano le manche per mandare in onda il telegiornale. In questo caso, magari con un minimo di si devono parlare i due direttori di Rai Sport e del TG1 per mettersi d'accordo per il lancio. Ci vuole veramente molto poco. Molto poco. Ma questo te la dice tutta con i compartimenti stagni che abbiamo nella TV di Stato, e ti assicuro che è sempre stato così. No, lo so. Senti, direttore, io ti ringrazio, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te. Grazie. Grazie a voi, e piacere è sempre mio. Grazie, Giovanni Bruno. Formula 1, Vettel su Red Bull, ha vinto il Gran Premio della Malesia. Per sapere come sono andate le Ferrari e qual è stato lo svolgimento della gara, tra poco su questa rete, al termine del nostro telegiornale, potrete seguire la cronaca di tutto il Gran Premio. Bene, Max da Genova, 800240024. Allora, buongiorno, ciao Max. Buongiorno. Allora, visto che il tema è il ventennale di Francesco Totti, sì, che lei ha citato anche Fellini, mi viene in mente una Marcord, perché io lo conosco personalmente da quando era piccolo, benché abiti adesso, Totti, nel nord Italia, siamo nati nella stessa via, sì, e ci ho giocato pallone quando lui... fino a che aveva 12 anni. Anche con Nesta, che è pure 76? Come? Anche con Nesta, che pure è 76? No, no, con Nesta purtroppo no, perché io poi sono laziale, peraltro, quindi... Ecco, però allora questa cosa mi ha un po' colpito, questo mi ricordo, un po' mi ha raddolcito, e ho chiamato magari per festeggiarlo con un piccolo aneddoto, che è abbastanza simpatico. Sì. Noi quando giocavamo con lui, io ho 8 anni più di lui, però lo facevamo giocare con noi perché per ovvi motivi, insomma, però quando aveva 10 anni, 12 anni era ancora piccolo di statura, e quindi lo chiamavamo Gnomo, un po' dispregiativamente, e questa cosa è rimasta qui perché poi lui ha avuto una carriera che è un po' in antitesi con questo nomignolo. Eh sì. Ecco, volevo salutare questo ventennale, benché io sia laziale, con questo aneddoto, lasciandolo a voi. E una cosa soltanto, se mi permette di aggiungere, sulla mia squadra del cuore, è che vorrei far notare una cosa, anche questa piuttosto poetica, che è l'unica squadra in Italia che porta il nome di una regione. E questa è una cosa che mi piace molto anche. Sì, fa bene a sottolinearlo, è così. È così. Max, la ringrazio dell'aneddoto. Totti direbbe a lei che è laziale, nessuno è perfetto, ma tant'è, lo sa benissimo. Intanto quel Gnomo è diventato un gigante della storia del nostro calcio. Poi c'è chi sottolinea, c'è chi prova gusto a sottolineare tutti gli aspetti più negativi, quasi in maniera dispregiativa, dagli sputi a certi atteggiamenti bulleschi. No, Totti è stato uno dei più grandi giocatori della storia del nostro pallone. Io lo metterei tra i primi tre certamente, poi per ragioni anagrafiche non ho avuto la fortuna di vederli tutti, di quelli che ho visto, forse il numero uno insieme a Gianni Rivera. Enzo, provincia di Roma. Eccomi qua, buonasera a voi. Salve. Faccio di professione il direttore sportivo, e ho avuto Francesco alla Lodigiani, dove sono stato per 14 anni. Sì. E lui arrivò da noi nell'86, fece il suo primo campionato nell'87 negli esordienti B. Sì. E non lo vendemmo alla Roma, noi l'avevamo venduto alla Lazio, cioè è un laziale mancato. era tutto fatto, documenti, tutto a posto praticamente, se non che la sera prima di firmare il passaggio con la Lazio andò a casa sua Gildo Giannini, credo lei conosca, il papà di Peppe, di Giuseppe Giannini, certo. Parlando col padre, insomma, convinse Francesco ad andare alla Roma. E per noi fu un grosso scarbo, anche perché la Lodigiani, non so se lei la conosce, se è romano. Sì, certo. No, non sono romano, ma so perfettamente di cosa stiamo parlando. Ma la Lodigiani è quella che abbiamo tirato fuori di Verani, sì, Toni, il serbatoio, della Lazio, eccetera, sì, eccetera. E oltre a questa è una potenza economica, perché praticamente l'impregilo, l'osta per la Lodigiani, insomma. Sì. Quindi abbiamo avuto, Enzo la ringrazio, abbiamo avuto l'aneddoto di Totti Gnomo e abbiamo avuto questa storia di Totti laziale mancato, che non è totalmente inedita perché molti di voi già probabilmente la conoscevano, ma lo stesso ringraziamo Enzo che l'aveva venduto alla Lazio. Spero di continuare a far divertire la gente e a divertirmi io prima di tutto. Tutti convocati. Allora, secondo Franco Piantanida, Balotelli supererà prima o poi Totti nel numero dei gol fatti, quindi magari supererà anche il record di Piola. Me lo voleva far dire, però io non lo penso e dunque non lo dico. 800240024. Luigi su Twitter: voglio anticipare la Rai domenica dopo il TG, non potrete vedere la Formula 1 perché non corre, mi spiace di non poter rovinare la gara. Anche questo messaggino carino, eh? Mio fratello non va più a messa da quando il parroco, durante l'omelia domenicale, dichiarò apertamente che il Milan aveva appena perso la Coppa Intercontinentale. Lui aspettava di vedere la partita in differita e fu un vero trauma. Buona Pasqua a tutti voi. 800240024. Intanto la Bundesliga su Sky per altri due anni, per le prossime due stagioni, effetto Guardiola oppure no? Saprete invece che le ultime inutili giornate della Liga, però non abbiamo visto neanche un gol quest'anno in diretta, andranno su un pool di emittenti private guidate da Tele Lombardia. Altra notizia televisiva di oggi, visto che eravamo in argomento. Cristian Monza, buongiorno. Ciao gente, buongiorno. Allora, abbiamo avuto chi giocava con Totti, chi l'ha venduta alla Lazio e lei che ha fatto con Totti? Presenta? Sì. Sì, Cristian. Cristian, no, stavo dicendo che abbiamo avuto, avrà sentito gli altri ascoltatori, uno che ha giocato con Totti, l'altro che l'ha venduta alla Lazio e lei? E io ho venduto Balotelli, ne sono contento. Ha venduto Balotelli e ne è contento? Sì, le spiego perché. Ho paura, spero di no, ma ho paura perché? Che faccia la stessa fine di Cassano. Ovvero si arriva a 30 anni, questo non parallelo è un, non è un professionista, non è un vero professionista. Se lei è contento di averlo venduto, mai, è autolesionista. Non farà mai come Totti, come Zanetti, come Del Piero. A 37-38 anni questi giocano ancora e sono tutto sommato ancora decisivi, sì. Soprattutto Totti, Del Piero, sì. Un po' meno anche per il ruolo. Beh, Del Piero gioca in Australia, Nesta gioca negli Stati Uniti. Ma d'altra parte. Ho paura che proprio per il fatto che non sia un vero professionista, non possa. Per ora lo sostiene il fisico. Sì. E a 23 anni anch'io correvo come una faina. Sì. A 30, non allenandomi fumando, non corro più come. Sì. Correvo a 23, sì. Ho l'impressione che purtroppo lui non possa fare una carriera di quelle di che lei magari si aspetta. Questo lo scopriamo, lo so Cristian, io da sempre, ma per il talento che ha, perché io come direttore Giovanni Bruno non ho troppe bandiere, io adoro i giocatori che mi divertono, poi quale maglie indossino per me è abbastanza relativo, se quella della nazionale italiana o di quella argentina per cui faccio il tifo da sempre, meglio, però io adoro i giocatori che mi divertono. Totti è uno di questi, Del Piero è stato uno di questi, Baggio è stato uno di questi, Ribera quando ero piccolo è stato uno di questi, non sto lì a parlare di Maradona, Van Basten, e l'elenco è abbastanza lungo. Balotelli è uno che mi diverte. Poi è chiaro che lei ha ragione quando dice: per avere una carriera lunga bisogna comportarsi da professionisti, soprattutto e a maggior ragione nello sport di oggi che non fa sconti a nessuno, perché sappiamo bene come 20, 30, 40 anni fa il talento ti portava dove volevi e ti permetteva anche di allungarti la carriera pure se non facevi una vita da grandissimo atleta. Oggi questo non è possibile. L'unica cosa che non mi va giù e non riesce ad andarmi giù è questo semplicistico parallelo tra Balotelli e Cassano, perché secondo me sono due persone, non dico personaggi, ma due persone, due ragazzi profondamente diversi. Quindi questo parallelismo non lo capisco, mi sembra sbagliato, semplicemente. Silvia, provincia di Pavia, buongiorno. Pronto? Buongiorno Silvia. Buongiorno. Dunque, io ho avuto un attimo di malinconia sentendovi parlare del 1993, perché sì, in quell'anno ho conosciuto una persona che mi ha insegnato ad amare, ad apprezzare il calcio e soprattutto a conoscerlo, a capirlo. E questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere ricordare. E sul personaggio di Totti, anche se la mia passione calcistica è orientata diversamente, devo dire che ho un'ottima stima di questa persona per il suo comportamento anche sociale, che ha una grossa importanza. Poi io capisco un po' di calcio, ma forse non sono in grado di fare delle classifiche di giocatori, primo, secondo e terzo posto. Però come uomo, nonostante qualche incidente di percorso, ma chi non ne ha, anche tra noi esseri umani, sì, direi che... Per incidente di percorso lei allude a certi atteggiamenti bulleschi sul campo di calcio, eccetera? Sì. Anche sì, il famoso sputo, che effettivamente il famoso sputo, poi tante volte a farsi giustizia da solo come un ragazzo di borgata quando non era necessario. Lui è un borgataro, certamente. Cioè, se qualcuno conosce la cultura romanesca, eccetera, sì, però non si fa così. Cioè, no, lo so che non si fa così. No, questo è evidente. Abbiamo qualcosa che non si fa così nella vita. Ma Silvia, questo è evidente. Non sto a chiederle di quel ragazzo del 93, perché sennò poi il discorso scivola su... Guardi, mi tocca mettere delle canzoni piene di nostalgia, non ne ho voglia, non sono così sentimentale. È una cosa bellissima, quindi anche se è finita, però siamo rimasti ottimamente appassionati di calcio insieme, quindi okay, sono tutti ricordi positivi. Molto bene, allora mi permette di evitare la canzone Melensa? Posso, sì, no, certo. Perché sennò sì, mi viene il diabete. Grazie Silvia. Non datemi del cinico però, promettetemelo. Adesso c'è un mio amico, un giornalista, grande giornalista secondo me, uno di quelli che gli capisce, Cristiano Gatti, già stato a questi microfoni, inviato dal giornale. Ciao Cristiano. Ciao a tutti. Come stai? Ciao Carlo. Bene, voi? Beh sì, siamo un po' persi nei ricordi da chi ha giocato con Totti, a chi l'ha venduto dalla Lodigiani alla Lazio, a chi ha conosciuto nel 93 qualcuno che l'ha fatto innamorare del calcio come la nostra signora Silvia. Io invece vorrei parlare con te dei ragazzi che nel 93 avevano 3 anni. Uno di questi è Peter Sagan. A te, fine cantore del ciclismo, chiedo: Balotelli si è detto Riva o paragoni di qui, paragoni là, che secondo me non stanno né in cielo né in terra, perché sono imparagonabili gli sportivi di epoche diverse, questa è la mia opinione. Adesso per Sagan si spende quello con Eddie Merckx. Ma sì, devo dire che io purtroppo qualche anno ce l'ho, anche qualche anno nel ciclismo, devo dire che di paragoni se ne sparano anche fin troppo facilmente. Io sì, di Merckx ne ho già sentiti mezzo dozzina, 20-30 anni, almeno, così, almeno sulle dita di una mano, per cui ci andrei molto piano. Tanto per cominciare, Sagan non potrà mai essere Merckx, perché non sembra avere la capacità per dominare i grandi giri, le grandi corse a tappe, almeno sì, al momento. Sì. È pur vero che si parla sempre di un ragazzo ancora in formazione, perché nel ciclismo a 23 anni si è ancora dei bebè, sì, per cui non è escluso che strada facendo, completandosi, non possa diventare un grande corridore anche per i grandi giri. Però ecco, sulle grandi montagne, che è il primo esame, il primo requisito fondamentale per vincere i grandi giri, lui ancora non ha dato segnali, per cui ecco, già qui siamo a metà Merckx, perché è vero che Merckx era un dominatore di corse in linea, ma Merckx dominava anche i grandi giri. Detto questo, restando al suo settore delle grandi classiche, io devo dire che non so ancora se sarà Merckx o questo mezzo Merckx, ma di sicuro siamo di fronte a un fuoriclasse. Sì. Bisogna sempre fare i conti con lo storico di un corridore, perché il grosso pubblico giustamente comincia a conoscerlo adesso, ma Peter Sagan è uno di quei predestinati che abbiamo cominciato a conoscere a 17, 18, 19 anni. Certo. Per cui non sboccia per caso adesso, non è uscito dall'uovo di Pasqua, ma si è costruito già nel tempo. Senti, ma poi lo sai meglio di me, con un campione così giovane, con il discorso che si fa con i Totti dell'epoca, con i Del Piero, con i Balotelli di adesso, conta tanto anche il suo equilibrio, la sua personalità, il suo saper gestire la popolarità, le pressioni e tutte queste cose qui, insomma, che non stiamo a ripetere. Il fisico è la capacità di essere corridore professionista fino in fondo, o atleta, esatto, professionista fino in fondo. Perché è un grande campione, soprattutto nel ciclismo, che è sport di grandi fatiche, ogni energia va centellinata, conta molto anche la vita giù di bicicletta. Sì. Perché se uno non si contiene, non si risparmia, non fa una vita, è facile anche che i campioni si sbattano via, ne abbiamo visti, sì, tantissimi. Comunque, ecco, devo dire che Sagan è uno spettacolo da vedere. Io consiglio a chi non sia un grande amante del ciclismo ogni tanto di buttare un occhio, perché è veramente uno spettacolo. È uno che non si risparmia, che attacca in continuazione, quasi ai limiti dell'incredibile, e che poi si concede tanto anche al pubblico. Certo, è uno che arriva impennando, tutti magari hanno visto. Io ti volevo fare ancora questa domanda, Cristiano Gatti. Cioè, a te che effetto fa vedere uno così guascone? Cioè, ti piace oppure no? Te la faccio però dopo il traffico, perché sono le 14:45 e poi ti saluto. Il legame tra me e la città, penso, è come se fossimo tutti fratelli, perché ovunque vado sembra come se mi conoscessero da 36 anni, come se vivessi in casa loro. Tutti convocati. 800 24 00 24, siete convocati tutti ogni giorno. Potete anche scrivere su Twitter come Luca: se Sagan andasse forte anche in montagna non sarebbe come Merckx ma come Hulk. Invece a Cristiano Gatti, prima di salutarlo volevo chiedere: ma a te, Cristiano, piacciono i guasconi? Cioè, piacciono quelli che vanno sopra le righe, che fanno l'impennata o la spinnata dopo una corsa terrificante come una Gent Wevelgem, che magari si fanno odiare dagli altri, che magari adorano, hanno l'arte dello sberleffo come a Totti d'altra parte? Guarda, prima di tutto io non sopporto i campioni chierichetti, quelli che non vivono mai nulla al di fuori del consentito, che parlano solo, dicono, parlano solo per luoghi comuni e frasi fatte. Mamma devo dire che quelli sono più insopportabili. Mamma del guascone. Quanto al guascone, è bello che i campioni si concedano qualcosa anche alla gente, allo spettacolo. Ecco. Devo dire che questo però è un discorso molto delicato, perché quando supera certi limiti, diciamo nelle leggi non scritte, nel caso del ciclismo, del gruppo, degli avversari, ovviamente non piace molto. Tu parlavi di sberleffi, Sagan è uno di quelli che non fa nulla per nascondere la sua forza, non fa nulla per non schiacciare i suoi avversari, e nella sua carriera questo peserà. Lui è già molto antipatico in gruppo e devo dire che per esempio ha già cominciato a pagare, perché lui alla Milano Sanremo corsa pochi giorni fa era nettamente più forte di tutti, la stradominata, però alla fine è riuscito a perdere, ad arrivare secondo, semplicemente sì, perché Cancellara, che era un altro che lo odia, e alla fine, sapendo di essere battuto in volata, si è divertito a farla perdere a Sagan. Il suo ultimo obiettivo è stato quello: non vinco io, ma di sicuro non vinci neanche tu. Beh. Per cui Sagan si è consumato in una serie di scatti, Cancellara l'ha sempre inseguito, alla fine Sagan è arrivato sfinito alla volata ed è arrivato secondo. Questo per dire, per spiegare anche a chi non è magari così tecnico nelle corse, il problema è, ecco, che quando tu sbatti in faccia agli altri senza senso della misura la tua forza, la tua, rischi, ecco, poi di dover moltiplicare gli sforzi per vincere. Certo. E spesso non basta, perché non sempre hai uno stato di grazia tale per essere così superiore agli altri. La paghi, e allora basta, la paghi. La paghi. Grazie, Cri. Cristiano Gatti. Grazie a voi e buona Pasqua già che ci sono. Buona Pasqua già che ci siamo, anche a te, caro Cristiano Gatti. Ricordo sabato in diretta dalle 17 alle 18 perché c'è campionato e quindi aspetto anche convocati del sabato, nostri amici ascoltatori. Affezionato a noi e c'è un buon ricordo di quello che possa essere stata la sua esperienza qui, tanto quanto ce l'abbiamo noi, al di là dei risultati anche proprio da un punto di vista umano. No, ci sono stati dei contatti, ma sono stati così sms o cose di questo genere, ma non, oppure contatti che erano soltanto di simpatia, ma non di progetti o programmi. Insomma. Quindi non potrà mai, potrà tornare un giorno Mourinho? Beh, questo è il futuro, io so. Sia voluta. I have a house. I have big emotional connections with Chelsea. And one day, I think naturally, I have to be back to the English football or to Chelsea or to another club. Of course, Chelsea means for me differently. Per quanto riguarda la Stramazzone, è stato un anno che era prevedibile, cioè, ripeto, è una persona di qualità, un allenatore di qualità che ha fatto un'esperienza assolutamente nuova, quindi è ammissibile che ci siano delle situazioni che non siano tutte positive nel risultato, ma che comunque è importante che lo siano nell'esperienza e quindi poi valide per il futuro. Futuro quindi si va verso la conferma? Ma penso di sì proprio. È il Varz degli allenatori, che ha come personaggio cardine, come principe del ballo, ovviamente uno che non le manda a dire, non le manderà mai a dire, che conosce molto meglio di Sagan certe volte l'arte dello sberleffo o della bugia, non lo so, cioè José Mourinho. Io dico che va al Chelsea, poi mi fa un segno di no, scommettiamo pure, amici ascoltatori, 800 24 00 24. Mustafa, provincia di Bologna, poi Umberto da Milano, dica. Mustafa, dica. Senti, volevo, siccome tutti hanno parlato di Totti, io non sono contro nessuno, io sono ex giocatore del Marocco. Sì? Ascolta, ti ricordi della partita che Totti quando dava nei calci a Balotelli, ti ricordi? Sì. Allora, il calcio dove vai? Ogni società si scritta. Il calcio è l'educazione. Prima del calcio ci vuole l'educazione. Perché se non c'è l'educazione, non c'è il calcio, anche se tu hai il fenomeno, per lei anche altro, ma non sei niente se non hai educato, hai capito com'è? Sì. Io vedo Balotelli, se vogliamo paragonare le cose, secondo me Balotelli è il più amato, più altre cose. Vedi la partita anche di Malta l'altro giorno. Sì. Allora Balotelli, tutti non vedono che nero o negro o quelli o giallo? Allora Balotelli. Sì, hai capito com'è? No, le altre non che ho hanno dato questi suggerimenti perché sono nati lì, perché sono della la stessa strada. Io non sono contro tutti, però l'educazione, io parlo di educazione, basta. Ma l'educazione in campo, diciamo? Sta parlando sì, di questo? Sì, ha dato dei calci, quella girata sì. Del mondo. No, ce l'ho ma ancora siamo... io il computer, quella lì. Io ho due figli che sono giocatori, sì. Uno di 14 anni che fa il portieri, sì. E l'altro fa il difensore. Sì. Quanto li faccio vedere quella cosa lì, non vogliono vederla. Sì, sì, ma Mustafa l'abbiamo sottolineato come molte volte Totti si sia fatto prendere da questa sua anima borgatara, comportandosi facendosi giustizia da solo in modo eclatante. Non dimentico nemmeno altri campionissimi, e il primo che mi viene in mente è Zidane, che aveva lui figlio di Marsiglia e dell'Algeria, aveva questa tendenza, aveva questo temperamento. È chiaro che non si dovrebbe fare così, e quindi che lei in linea di principio ha ragione. Umberto da Milano e poi tutti a casa. Pronto? Sì, dica. Dico, buonasera, Umberto. Gente. Salve. Senta, ecco, ti volevo accennare una cosa di Formula 1. Sì? Volevo solo dire che adesso per emozionarci vediamo un sorpasso un po' particolare di quelli alla vecchia maniera, e subito esistono i processi perché è stato fatto sia dalla scuderia che pure da, dalla stessa, insomma, da chi gestisce la Formula 1. A me piacciono queste cose, come penso a tanti, e non riesco ad affascinarmi adesso passi dentro ai box, anche se ultimamente stanno facendo un po' di spettacolo con gente che sbaglia addirittura la propria postazione per la sostituzione delle gomme. Sì, quella lì è stata la cosa più comica della domenica, no? Anche su questo sono d'accordo, caro Umberto. Ci fermiamo qui, ci riprendiamo domani sempre alle 2 con Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia. Ciao a tutti. Sono un tifoso di Totti. Ciao, le stesse cose che tenevo io quando tenevo 18 anni, io ho 70 anni. Allora io quando giocavo io era una cosa eccezionale, io zappavo la terra, mi venivano a prendere dopo zappavo la terra e andavo a giocare.